come di 3,2 kg nell'ospedale di una piccola città. Già si vedeva che sarebbe stata l'unica persona in grado di salvare l'intera umanità. Dalle bibite in lattina, del fast food all'aspirina, dall'ipocrisia della pubblicità. Nell'1996 si avvicinò all'omeopatia perché deviato era il suo flusso di energia. Il guru disse: è preoccupato, non mangiare più la carne, prendi ste pastiglie in erboristeria. La conseguenza fu ricovero d'urgenza in ospedale per diarrea, deperimento ed anemia. Del suo primo amore, un uomo con una ventina d'anni in più. Però è comodo essere in conflitto generazionale per poi prenderlo dai 35 in su. Si conobbero nel corso di una manifestazione per difendere la canna di bambù. L'1999 si va all'università a Bologna con i soldi di papà. Qui cercava di convincersi di essere proletaria con in tasca il manifesto l'unità. Presa dalla facoltà di lettere e filosofia, si iscrisse al corso di cultura, lingue, lettere orientali, metodi di cura alternativi basati sui fiori di Bach. Io lo so che tu hai la tua libertà, però a me no, così proprio non mi va. E allora alterna, dai, fammi divertire così. Andiamo al cinema stasera. Sì, ma solo la sezione. E se ti porto fuori a cena, prenotiamo al sushi bar, chiacchieriamo di qualcosa. Sì, dai! Ho sentito che in Australia una multinazionale sta ammazzando dei canguri con siringhe di veleno. Cioè, un vero e proprio genocidio. Dobbiamo troppo manifestare. Ho già chiamato un po' di amici. Per ora siamo io, Enne, Rasta, Bondina, Kongo, Vega e Tofu. Vieni anche tu? No! Dopo una lunga relazione nel 2006 lo saluto e prendo un volo per Bombay. Certo, un po' di amaro in bocca gli rimane. Lui sperava di finire sull'altare insieme a lei. Lei che adesso è tutta presa a meditare dentro il tempio con la gente che la scruta con un occhio un po' sospetto, per la pelle troppo chiara e per il tanga che le spunta dai jeans. Io lo so che tu hai la tua libertà, però a me no, così proprio.